il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige, a cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al quadrifoglio affrontiamo l'argomento dei parchi. Oggi in Italia i parchi nazionali sono circa 25 e coprono tra terra e mare circa il 5% del territorio totale. A questi poi si devono aggiungere i parchi regionali, riserve e aree protette a livello locale e di minori dimensioni. Tuttavia, nonostante questa abbondanza, questo è un tema che è divenuto spinoso. Se ne parla poco e quasi sempre per sottolineare non tanto l'importanza dei parchi a livello ambientale, ma piuttosto per mettere in evidenza conflitti, ad esempio tra uomo e la fauna che torna a ripopolare alcune zone anche vicine ad insediamenti abitativi o insediamenti agricoli. Eppure dopo molti anni c'è anche chi li vede come luoghi che frenano un certo tipo di economia, che richiede maggiore libertà, scelte più libere negli insediamenti, tecniche produttive e così via. Non è un caso che, da quanto ho appurato guardando un po' anche online, dal 2007 non era stato istituito alcun nuovo parco nazionale fino a quest'anno, in cui è stato approvato un nuovo parco nell'isola di Pantelleria. E anche i progetti esistenti sono di nuovi parchi sono tutti attorno a piccole aree, piccole isole, quasi tutti. C'è anche un caso proprio di questi giorni, un progetto di unificare i parchi regionali del Delta del Po e quello emiliano e quello veneto per farlo diventare nazionale, che però ha suscitato alcune proteste, perché anche se potrebbe essere un'opportunità in termini di visibilità e magari di fondi economici, questo potrebbe voler dire portare delle competenze fuori dalla nostra regione, un allargamento delle aree soggette a restrizioni e così via. Ecco, di tutto questo, o meglio non di tutto questo, di alcuni di questi argomenti vorremmo parlare oggi con Silvio Bartolomei, che è direttore del Parco Naturale dell'Adamello Brenta, ma che in passato è stato anche direttore del Parco dei Colli Euganei. Benvenuto Silvio Bartolomei. Grazie a te e a tutti gli spettatori, e veramente sono onorato. Grazie. Allora, la prima cosa che potremmo chiederti è: qual è lo scopo di un parco naturale tutelato e ha ancora senso oggi? Ma direi che oggi più di ieri, grazie, oppure potremmo dire purtroppo, ai cambiamenti climatici, i parchi diventano delle vere e proprie riserve della biosfera. Quindi sono strategici e fondamentali, non solo come in passato si riteneva per preservare e quindi educare le popolazioni e le generazioni future, ma proprio per diventare delle vere banche genetiche e banche che permettono alle comunità locali di mantenere una continua presenza sul territorio. Perché allora, se hanno questa importanza, oggi il sistema dei parchi appare in crisi o comunque rimesso in discussione? Almeno così mi pare di aver capito. Sì, è vero, nel senso che i parchi sono in crisi da parecchi anni per vari ordini di ragioni. La prima fra tutte è ovviamente le risorse economiche. La seconda, però, che direi quasi potrebbe diventare la prima, è culturale. Cioè non siamo stati al passo dei tempi, dico siamo perché chi si è occupato e si occupa di parchi, dobbiamo superare la logica del conflitto tra pro e contro, dobbiamo superare alcune dinamiche che permangono, ma sono fondamentalmente frutto di interessi contrapposti, e dobbiamo andare verso invece una nuova dimensione, che è quella di uno sviluppo sostenibile, che abbiamo recitato a parole negli anni 80 e 90, ma che solo adesso comincia, grazie, come diceva Einstein, alla crisi, a diventare realtà. Ecco, un problema culturale, però faccio un po' fatica a capire questo, nel senso che in teoria oggi la nostra società è molto più attenta alle questioni ambientali, dovrebbe esserlo, agli animali, al rispetto degli animali, della natura, al risparmio energetico, appunto i cambiamenti climatici ci hanno sensibilizzato, e anche la politica dovrebbe esserlo più attenta, quindi dovremmo essere culturalmente più pronti ad affrontare queste sfide, invece pare che non sia così. Esattamente, quello che dici è assolutamente vero, non siamo pronti perché purtroppo non ci siamo educati sufficientemente alla diversità umana, alla diversità di pensiero e abbiamo continuato a pensare monoliticamente che il pensiero dominante sia quello giusto. In realtà la differenziazione oggi, come nella natura, deve essere un must, e quindi in questo si fa ancora fatica, cioè c'è ancora troppo poco dialogo, c'è ancora troppa poca partecipazione e soprattutto ci sono ancora ampi spazi di coprogettazione. Poi i parchi, come tutte le realtà storiche, è come un palazzo, una villa, un castello storico, ovviamente è un oggetto molto delicato che ha dei vincoli, non solo funzionali, ma anche strutturali, e quindi mettervi mano, ovviamente con interessi contrapposti, genera quasi sempre delle situazioni di conflitto o quantomeno di opinioni tremendamente diverse, perché molto spesso siamo baricentrati sull'ego piuttosto che sul noi, e questo determina ovviamente una visione completamente diversa. E non è una questione, alla base c'è sempre una questione economica, oppure no? Ad esempio, penso che i parchi, quando sono stati istituiti, sono anche stati pensati, e di fatto lo sono, come attrattori turistici, dovrebbero anche portare ricchezza in un determinato posto, ma forse non è quello stesso tipo di ricchezza che altri hanno interesse a sviluppare, che magari sono altri tipi di insediamenti industriali o agricoli. Allora, sicuramente i parchi sono volano per il turismo e punto di eccellenza. Basti pensare a quello che è la rete trentina dei parchi naturali, che è un'eccellenza invidiata da tutta Europa. L'UNESCO ha scelto nel 2018 Adamello Brenta e Madonna di Campiglio come sede della conferenza internazionale di tutti i parchi geopark del mondo, quindi avremo oltre 180 nazioni nel 2018. Quindi questa è un po' una notizia anche nuova appena avuta da una serie di lavori che il nostro parco ha fatto. Tutto ciò però non è sufficiente, perché delle volte si equivoca sul concetto di sviluppo, si equivoca sul concetto di usufrutto. Allora, ci sono anche piccoli diritti, no? Locali piuttosto che generali. Io ho sempre raccolto la legna, io ho sempre raccolto i funghi, nessuno mi ha mai detto nulla, e adesso c'è un parco che mi dice di no. Questo genera delle semplici o anche profonde antipatie. È un po' come dire, come teniamo casa nostra. Allora, essere un gruppo è sicuramente più difficile che coltivare l'orto di casa. L'orto di casa lo possiamo organizzare come vogliamo. Quando siamo delle realtà e delle comunità complesse, e ormai la complessità è il nostro quotidiano, diventa molto difficile cogestire, cogenerare nuovo sviluppo. Certo. Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? A big black sky over my town. I know where you're at, I bet she's a pro. lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo affrontando l'argomento parchi, lo stiamo facendo, parchi naturali ovviamente, lo stiamo facendo con Silvio Bartolomei, direttore del Parco Naturale dell'Adamello Brenta. E abbiamo visto un po' la situazione dei parchi. Una delle cose che io dicevo, che dal 2007 fino al 2016 non era stato istituito in alcun parco nazionale, in realtà però ci sono nel territorio tante piccole aree, riserve naturali, aree umide eccetera, protette, che si stanno anche diffondendo. Allora, una distinzione si può fare tra parchi nazionali, abbiamo visto questa polemica che c'è sull'unificazione per far diventare parco nazionale quello del Delta, del Po. Cosa significa essere parco nazionale e cosa significa invece essere area protetta a livello locale? Allora, questa distinzione è stata un'intuizione a livello internazionale e nazionale e regionale datata molti anni fa, però è stata un'intuizione molto molto futuristica ed è corretta, cioè nel senso che c'è una strategia nazionale con dei punti di eccellenza che riguardano i macro siti che storicamente diventano dei poli di protezione della natura, della fauna, della flora e del paesaggio ovviamente, e degli altri punti che via via, per cultura, per necessità e per dimensioni, si sono arricchiti fino ad arrivare alla rete Natura 2000, che nel 2000 l'Unione Europea invitò ed incitò tutte le nazioni degli stati membri ad individuare anche piccole aree di 5.000 metri quadri in cui l'eccellenza della natura doveva essere preservata e conservata. Questo ha permesso di creare una rete, cioè un sistema complesso, articolato, dal piccolo al grande e dal grande al piccolo, che permette i corridoi faunistici, permette i corridoi vegetazionali e quindi permette la conservazione della natura al meglio. Ecco, possiamo dire che questo tipo di riserve, diciamo, di parchi, di aree protette, in realtà possono essere, come dicevi, il futuro, nel senso che sono più abbordabili anche per un'amministrazione regionale o comunque locale, sono più vicini alla popolazione, forse anche più facilmente ben voluti, più facilmente gestibili e appunto anche più diffusi nel territorio, e sappiamo che oggi la gente va a cercare questi luoghi e quindi non sempre il parco naturale nazionale è visto sotto casa, mentre questi sono più fruibili, insomma, e quindi anche più facilmente sostenibili. Sì, è corretta questa interpretazione e tra l'altro è condivisibile, basti pensare ai parchi agricoli che una volta veniva quasi da sorridere, no? 30 anni fa, a parlare di un parco agricolo. Oggi invece avere una superficie agricola, magari tenuta a biologico, magari tenuta a biodinamico e quindi con particolari pratiche agronomiche di compatibilità e di sostenibilità, permette di far capire ed apprezzare ai cittadini, ai bambini, agli adolescenti degli spazi, dei luoghi di eccellenza in cui sviluppare e mantenere questo contatto con la natura. L'essere umano senza la natura non può fare nulla e noi dobbiamo continuare, anche malgrado le ristrettezze economiche, ad investire in questi spazi. Ecco, un'ultima battuta, gli animali, ne abbiamo parlato anche di recente in questa trasmissione, questi parchi naturali hanno anche portato al ritorno di specie che magari vivevano nelle nostre zone o addirittura alcune magari introdotte del tutto nuove che però hanno portato dei problemi come i cervi, il cansiglio, nei Colliugani abbiamo la questione dei cinghiali, l'orso eccetera. In due battute perché stiamo in conclusione, cosa ci puoi dire di questo? Beh, sicuramente è un grande tema, cioè l'aspetto faunistico che poi è sempre quello che attira di più e accende anche i più grandi conflitti. Io sono qui testimone e onorato di lavorare nel Parco Naturale Adamello Brenta, in cui la reintroduzione dell'orso negli anni 90, alla fine degli anni 90, è stata uno degli emblemi di questo concetto naturalistico. Oggi nel territorio trentino esistono molti esemplari di orso, l'orso non è più minacciato come un tempo. Ovviamente c'è da cogestire una complessità tra uomo e animale. L'animale non è contrario all'uomo, è più spesso l'uomo contrario all'animale. Qui ci sono delle caratteristiche sia psicologiche, vorrei dire, che antropologiche. Il concetto comunque è di condividere un territorio che non è solo nostro. L'uomo deve cogestirlo insieme agli animali e alla natura. Non è casa nostra. La natura resta, l'uomo ma. Va bene, tantissime questioni, abbiamo visto tanti argomenti, punti aperti, ovviamente non si può avere una conclusione. E grazie e speriamo di tornare presto su queste questioni. E che ci siano anche delle belle novità. Grazie a voi, buona giornata. E chiudiamo questa trasmissione con un paio di brevi notizie. La festa del radicchio di Rio San Martino a Scorzè ha aperto i battenti la scorsa domenica, celebrando così l'inizio della stagione del radicchio rosso di Treviso IGP, fiore d'inverno prodotto in 24 comuni di 3 province venete, Treviso, Padova e Venezia. Per 20 giorni la frazione di Rio San Martino, nel cuore della terra del radicchio IGP, richiamerà oltre 70.000 visitatori. Tra le iniziative di questa 35esima edizione, per il secondo anno si rinnova l'appuntamento con l'Unione Cuochi del Veneto. Chef delle 7 province del Veneto si sfideranno infatti in brigate per beneficenza nella serata di giovedì 17 novembre. La festa è impegnata anche a far conoscere i grandi prodotti orticoli del Veneto ai futuri chef attraverso il premio San Martino, che vede da anni sfidarsi gli istituti alberghieri del Veneto. La festa si conclude domenica 20 novembre. E per concludere inizia a novembre un corso per aspiranti gelsi bachicoltori indirizzato ad aziende con partita IVA agricola organizzato dal CIPAT Veneto con docenze del CREA API di Padova, l'unico istituto di riferimento in Europa occidentale e riconosciuto a livello internazionale a tutela della gelsi bachicoltura. Il corso si svolgerà tra fine novembre e gennaio 2017 con 7 lezioni di 4 ore cada una. E il corso è gratuito, info e iscrizioni presso il CIPAT Veneto. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il quadrifoglio la prossima settimana, riascoltateci se volete sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.